Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, nella seconda metà dell'Ottocento, ne abbiamo già parlato qualche tempo fa, un parassita importato accidentalmente dalle Americhe, la filossera, che attacca le radici della pianta della vite, fece una strage in Europa. E da allora in pratica tutte le viti cresciute in Europa, e non solo a dire il vero, sono innesti di varietà autoctone su fusti, in gergo si parla di porta innesto, di vite americana. Questo è in realtà un fattore di grande fragilità di fronte ai cambiamenti climatici e limita anche l'aria di coltivazione della vite. Tutto questo però potrebbe cambiare nei prossimi anni grazie a una ricerca avviata negli anni 80 all'Università di Milano e coordinata dal professor Attilio Scienza, che è un esperto di agricoltura di fama mondiale. È un lungo lavoro che ora è pronto a dare i suoi frutti sotto forma di 4 nuovi porta innesti. È una storia affascinante che tocca un totem della cultura italiana, il vino, e che ci insegna anche qualcosa su come l'innovazione a volte possa procedere per strappi e lunghe pause. Allora vogliamo dedicarci due puntate, ma diamo il benvenuto al nostro ospite, il professor Attilio Scienza. Buonasera. Buonasera. Allora, senta, iniziamo con un po' di storia. Come si arriva alla situazione attuale con in pratica quasi tutta la viticoltura mondiale basata su 5 o 6 porta innesti? Beh, quando arriva la filossera in Europa, dopo i primi tentativi di lotta chimica, possiamo dire, si rende conto che bisogna trovare una soluzione alternativa a questa lotta. Ma certamente nelle conoscenze degli scienziati europei di allora non esisteva questa possibilità di utilizzare le specie che vivevano e vivono ancora in America come porti innesti. Questo, diciamo, questa scoperta, come sempre capita, è fortuita, avviene attraverso una segnalazione di un produttore bordolese che nella sua collezione, allora il secolo dell'Ottocento è il secolo del collezionismo, sì, c'erano delle piante resistenti, e da lì parte. Cioè, uno si ricerca. Era portato dall'America un po' di piante di vite per collezionarla, sì, probabilmente sì, si era portato in dietro effetti... anche la filossera, questo signore, e non solo lui, ma dice: ah, ma guardate, le mie piante lì da collezione stanno benissimo. Lui è stato la causa del male, ma anche ha portato il anche la soluzione. Al male. Sì. Comunque si comincia a pensare all'utilizzo di questo materiale come talea, come legno. Naturalmente le specie pure americane che vivono in ambienti molto ben definiti, si va da suoli ricchi di acqua a suoli molto poveri, a suoli ricchi di calcare, a suoli acidi, non avevano dentro di sé tutte le caratteristiche che potevano servire per la viticoltura europea. Quindi si è proceduto ad un ciclo di ibridazione. Di incroci, quindi. Mettendo assieme, non so, le caratteristiche della riparia che vive in ambienti freschi lungo i grandi fiumi americani con le caratteristiche della berlandieri che invece è il porto innesto delle zone subdesertiche molto calcaree, ottenendo tutta una serie di ibridi, alcune centinaia. Naturalmente poi nelle prove di campo, nelle prove non concrete, tutti funzionano bene, insomma, parte la selezione, non hanno funzionato, esattamente, e si è concentrati su pochi, su quelli che in fondo hanno manifestato una maggiore capacità di certo. Vivere in ambienti molto diversi, una certa universalità, ecco, nel comportamento. Certo, certo. E alla fine si è arrivati sostanzialmente a 5-6 porta innesti attuali. Che sono, ecco, quelli. Cosa implica questo oggi? Beh, implica che se questo poteva andare bene fino a qualche anno fa, quando c'erano molto meno esigenti in termini di quantità, in termini di qualità. Le cose sono cambiate in modo sostanziale nel secondo dopoguerra, perché la qualità è aumentata e quindi le esigenze di trovare un giusto equilibrio tra produzione e qualità sono state dominanti. Sì, c'è stato un cambiamento culturale importantissimo nel mondo del vino. Ecco, perfetto. Però perché oggi questi appunto 5-6 innesti non rispondono a questo cambiamento? Ah, perché sono stati creati in una fase climatica, direi, favorevole. Quindi non c'erano i problemi dell'acqua, non c'erano i problemi dell'eccesso di temperatura. E quindi questi 4 porta innesti in che modo rispondono quindi a questo cambiamento climatico e alle nuove esigenze? Allora, questi 4 porti innesti hanno alcune caratteristiche peculiari che li rendono diversi, alternativi da quelli del passato. La prima è che uno di questi è molto tollerante alla siccità, quindi riesce a produrre uva di qualità e in quantità con un risparmio dell'acqua circa del 40%, quindi è insomma, molto importante molto, dal punto di vista economico. Un altro elemento che abbiamo introdotto in un altro porto innesto è quello della resistenza al calcare, quindi noi abbiamo cercato di utilizzare alcune specie americane che potessero portare questo carattere nei nostri ibridi. Un altro carattere che abbiamo introdotto era quello del risparmio degli elementi fertilizzanti. Abbiamo creato anche un porto innesto che riesce addirittura a vivere con il 50% delle disponibilità di potassio, quindi praticamente quelle viti non devono più essere concimate con potassio. Fra l'altro il porto innesto che sopporta la siccità sopporta anche a livelli più elevati di sale, che è un altro elemento importante, perché la diffusione della viticoltura si sta sempre più allargando verso zone in cui sono presenti cloruri o comunque sale, quindi con difficoltà poi di sopravvivenza. Va bene, grazie Scienza, ci dobbiamo assolutamente fermare qui, ma riprendiamo lunedì a parlare di questa storia. Buona serata a tutti.